Buongiorno, nonna. Buongiorno, madre. Si inchinò. Dove sei stata, luna di primavera? Chiese Neve Fragrante, gli occhi chini sulla seta che teneva fra le mani. I miei capelli. Oh, è molto graziosa, non è vero? Osservò la donna anziana rivolta alla più giovane. La madre finì di intrecciare il filo e mise da parte il suo ago, poi guardò la figlia. Passò un momento prima che parlasse. Ah, sì, è diversa. Ha l'aria più civile. Continuò a fissarla finché una leggera gomitata della matriarca le ricordò il suo dovere. Luna di primavera, puoi sederti. Tua nonna e io abbiamo importanti questioni da discutere con te. Con me? La ragazza si sedette rapidamente su uno sgabello accanto al largo telaio da ricamo. Cercò di sorridere, ma non vi riuscì. Figlia mia, sei invitata a prendere il tè nella sala delle virtù femminili. Perché? Ah, oh, c'era sempre da prendere il tè. È l'unica parola che tu conosca? Lascia perdere il perché. Tu prenderai il tè con noi questa mattina. Ma no, questa mattina? Sì, fra pochi minuti. Ma lo zio anziano mi aspetta per le mie lezioni. Non riusciva a nascondere la sua delusione. Beh, per una volta prenderai il tè con tutte noi, capisci? Sì, madre. Ti comporterai come si deve, non parlerai finché non ti si rivolgerà la parola, né ti distrarrai immersa come al solito nei tuoi sogni. E le mie lezioni del pomeriggio? Devo rinunciare anche a quelle? Neve Fragrante batté seccamente le mani. Lezioni, sempre lezioni. Se volessi un secondo topo di biblioteca, io. Luna di primavera abbassò gli occhi e chiuse le orecchie. Aveva sentito la predica di sua madre diverse volte. Le parole non cambiavano mai. Aveva tanto sperato che fosse un giorno speciale, memorabile come quello in cui si erano incontrati Giada Nera e Pao Yu. Com'era andata? La pietra preziosa che Pao Yu portava era grossa come un uovo di passero e aveva la rosea luce delle nuvole mattutine. Su di essa erano incise le parole: Non perdermi mai, non perdermi mai. Vita gloriosa, prosperità duratura. Allora Giada Nera gli mostrò il suo amuleto d'oro, sul quale erano incise queste parole: Non lasciarmi mai, non lasciarmi mai, gioventù preziosa, splendore eterno. E Pao Yu esclamò: I nostri versi si integrano l'un l'altro e formano un perfetto. Luna di primavera, mi ascolti? Lei alzò gli occhi. Sì, madre. Neve Fragrante agitò un dito verso di lei. Ora ricorda, non parlare delle tue lezioni. No, madre. Ricorda il detto del saggio, una donna silenziosa è una donna virtuosa. Sì, madre. La matriarca, che non aveva parlato durante la tirata della nuora, fece un cenno a Luna di primavera invitandola ad avvicinarsi alla sua sedia di palissandro. Quando la ragazza le fu accanto, la vecchia si chinò per sussurrarle all'orecchio: Devi fare la migliore impressione sulla nostra ospite nipote, perché Pantai Tai è venuta appositamente per vederti. Non sarà un tè come gli altri, ma un'occasione decisiva. Luna di primavera avvampò di gioia e imbarazzo. Aveva indovinato dopo tutto. Oggi sarebbe stato il primo giorno della sua vera vita. La matriarca uscì in un ampio sorriso, dimenticando per una volta, tanto era compiaciuta, di nascondere le sue gengive. Ora che hai capito, nipote, raggiungiamo le altre signore. Per tutta l'ora del serpente, mentre sua madre e le zie chiacchieravano con Pan Tai Tai di ogni cosa, tranne che del motivo della sua visita, Luna di primavera sorseggiò il suo tè con contegno, gli occhi bassi, benché il suo cuore battesse più forte dei ferri da maglia della quarta prozia. L'ospite sembrava abbastanza gradevole, anche se forse aveva i denti un poco sporgenti. Si domandò se il figlio assomigliasse alla madre. Secondo la terza cugina, quello era di regola. Le signore si alzarono. Il tè era finito. Lei non aveva pronunciato una sola parola. Stavano tutte insieme, nonna, madre, figlia, le altre parenti e le serve, agitando le mani nel saluto. Incontriamoci di nuovo, gridò Pantai Tai trionfante, come un mercante che ha venduto tutte le sue merci. Luna di primavera pensò: Incontriamoci di nuovo. Le donne tornarono alle loro sedie, chiacchierando allegramente, già programmando le feste future e ignorando la futura sposa. I matrimoni erano affari del clan, di competenza delle anziane. Inosservata, L'una di primavera scivolò via e si diresse rapidamente verso gli alloggi dei servi. Nei suoi sogni a occhi aperti, il fidanzato era un uomo dai mille nomi mutevoli come il tempo. Ne abbandonava uno e ne sceglieva un altro a suo piacimento, ma naturalmente non sarebbe toccato a lei scegliere. Uno straniero. E se il ragazzo Pai aveva la faccia butterata come una focaccia di sesamo? E le gambe smilze come bastoncini di legno? E se... Trovò Ciccia accoccolata sulla soglia della sua stanza, gli avambracci che sussultavano mentre strofinava un paio di pantaloni di vecchio falco sull'asse per il bucato nella tinozza di legno. Ciccia! La serva trasalì e alzò gli occhi su di lei. L'una di primavera le si inginocchiò accanto sul pavimento di terra battuta. Il tuo vestito nuovo! Oh, non importa, ti prego, posso parlare con te? Ora? Ti prego! Con calma Ciccia finì di risciacquare e strizzare i panni e li lasciò ricadere nella bacinella. Si asciugò le mani nel grembiule e sfiorò la fronte della ragazza. Stai male? L'una di primavera scosse la testa. Vuoi parlare nella mia stanza o nella tua? Nella tua! La stanza di Ciccia non era cambiata da quando l'una di primavera e Fiore di Prugno vi si erano nascoste la prima volta per eludere i richiami di neve fragrante al telaio da ricamo. C'erano due sgabelli, il baule malandato, la pipa di vecchio falco e appese alle pareti le ceste piene di spaghi, piume, fogli e ossa spolpate che Ciccia raccoglieva per vendere al trafficante di cianfrusaglie. Dopo la morte della schiava, l'una di primavera vi era venuta spesso per aiutare Ciccia a selezionare i suoi tesori. Così ricompensava la serva per essersi assunta ai compiti di Fiore di Prugno senza lamentarsi, consentendole di rifiutare un'altra schiava. Nessuna delle due ne aveva mai fatto cenno, come per una tacita intesa. L'una di primavera avvicinò il suo sgabello a quello di Ciccia finché le loro ginocchia si toccarono. Vecchia amica, prese fra le proprie le tozze dita a salsiccia. Vecchia amica, mi devi aiutare prima che sia troppo tardi. Dimmi che aspetto ha questo figlio di Pantaitai. È un letterato? Frequenta le case da te? Ciccia scosse la testa, tirando fuori il fazzoletto per soffiarsi il naso. È ancora peggio di quanto immaginassi, pensò l'una di primavera. Ciccia si soffiava il naso soltanto quando era sconvolta. Allora, vecchia amica, allora! Ciccia esitava e dopo aver controllato che non ci fosse nessuno fuori dalla porta, come se qualcuno potesse osare ficcare il naso nei suoi affari, disse in fretta: Se vuoi la mia opinione, giovane padrona, dovresti raderti la testa, scambiare il tuo corredo per un rosario e farla finita. Non scherzare, Ciccia. Non scherzo per niente. Pantaitai è una donna terribile. Una volta che venne qui a prendere il tè, glielo versai prima che, secondo lei, fosse stato sufficientemente in infusione. Accusò tua madre davanti a tutti di essere troppo indulgente con i servi. Ciccia sporse il labbro inferiore e mise in mostra i denti con un sorriso falso. Se lasci che i tuoi servi la passino liscia una volta, cara sorella maggiore, fra non molto sarai tu a servirli. L'una di primavera scoppiò a ridere. Ma oggi non è successo niente del genere, vecchia amica. Forse quell'unico episodio ti ha fuorviata. Di nuovo Ciccia scosse la testa. Oggi voleva fare buona impressione sul tuo clan, giovane padrona. Ma ho sentito delle storie terribili da una delle sue ragazze di cucina che viene dal mio villaggio. Forse suo figlio non è come lei. Ciccia sputò. Che cosa c'entra lui? È la suocera che conta. La donna, Pan, ha due facce. Una per famiglie influenti come la tua e un'altra per il resto del mondo. E se Ciccia aveva ragione? Improvvisamente l'una di primavera rimpianse di essere stata tanto virtuosa durante il tè. Se avesse chiacchierato incessantemente, parlando delle sue lezioni, raccontando che quando pioveva e tutti gli altri si affrettavano a ripararsi, lei correva fuori. Ma forse non era troppo tardi. Vecchia amica, strinse di nuovo le mani di Ciccia ed espresse ad alta voce il suo pensiero. Forse non è troppo tardi. Va dalla ragazza di cucina dei Pan e raccontale le cose più terribili che ti vengano in mente sul mio conto. Che vengo sgridata spesso, ricamo male e voglio sempre dire la mia. E metticene dell'altro. Ma Ciccia si limitò a scuotere la testa, soffiandosi di nuovo il naso. Non farà cambiare idea a Pantaitae, piccolina. Lei vuole un'alleanza con una famiglia distinta e colta per far risplendere il suo denaro. Parlando, accarezzava la guancia di luna di primavera, come asciugando lacrime che dovevano ancora cadere. Era come se la mano gentile della serva dicesse una verità che le sue parole non potevano trasmettere. Non c'erano speranze. Questa unione era il destino di luna di primavera. Ora non avrebbe mai visto il lago Wuxi o Hangzhou, solo i giardini confinanti con la casa di Pantaitai e i sorrisi cavallini della sua futura suocera e suo marito o le mura del convento. Soltanto quando Ciccia si protese verso di lei, prendendole le mani, si accorse che aveva cominciato a disfare le sue crocchie di fanciulla. Senza una parola, la vecchia serva riparò il danno. Luna di primavera non oppose resistenza. Quando le crocchie furono di nuovo al loro posto, Ciccia si chinò a sussurrarle nell'orecchio. Passarono diversi minuti prima che capisse il vero significato di quelle parole. In una casa come si deve, gli inferiori devono ubbidire ai superiori, i figli ai genitori, i genitori agli anziani, gli anziani al patriarca. Luna di primavera scosse la testa. Più che a quella di chiunque altro tengo alla stima dello zio anziano. Se parlo dell'accordo per il mio matrimonio, gli penserà che sono senza pudore, che mi comporto come una delle classi inferiori, un'attrice o peggio. Mi crederà un irresponsabile. Lentamente si alzò e si diresse verso la porta, ma Ciccia la precedette, bloccandole l'uscita e mettendole le mani sulle spalle. Parlò di nuovo in tono incalzante. No! Non penserebbe niente del genere, poiché egli è vissuto con gli stranieri e si dice che le donne straniere coltivino molti corteggiatori e con la benedizione dei genitori. Quel che tu gli dirai non lo sconvolgerà di certo. Devi parlargli subito, prima che le cose vadano troppo oltre. Allora Del Gallo, talento coraggioso, era alla sua scrivania nello studio, aspettando luna di primavera e rileggendo la poesia che la nipote aveva scritto il giorno prima. Entrando nel mondo avventuroso, arrivai a capire che solo lasciando il mio universo, il cortile, posso conoscere i suoni del ritorno e gli zoccoli implacabili del mio destriero. Sorrise. Quello sforzo non era senza pregi. Non avrebbe mai creduto che sarebbe arrivata così lontano in soli 3 anni, anche se lavorava ogni giorno e spesso anche di sera. Che piacere aveva provato vedendo sbocciare così le sue capacità. La sua voce lo interruppe ed egli alzò gli occhi. Zio anziano, ripeté Luna di primavera in piedi sulla soglia. Per un attimo non poté rispondere. Era bellissima. Come mai non se n'era accorto fino ad allora? Era forse la nuova acconciatura da fanciulla? O quella particolare sfumatura color lavanda? Era sicuro che non l'aveva mai portata prima. Lei parlò di nuovo. Zio, perché mi guardate così? Davvero? Spostò di lato le carte sulla sua scrivania. Entra, nipote. Lei sedette sulla sedia vicino alla sua scrivania, con le mani conserte e la testa china. Allora, parla. Non so come dirvelo. Aspettò, stranamente turbato, come se fosse passato attraverso uno specchio e avesse trovato tutto come prima, eppure stranamente diverso. Mia madre ha parlato di me ultimamente. La sua voce era molto bassa. Sì, lamenta 3 volte al giorno per i tuoi studi, ma quella non è una novità. Luna di primavera esitò ancora un istante, poi scoppiò: Vuole che mi sposi? Così è successo, pensò. Lo aveva sempre saputo, eppure aveva sperato che la vita continuasse così ancora per un poco. Non poteva immaginare come sarebbe stato alzare gli occhi dalla corrispondenza e non vederla. Disse soltanto. Perché sei così infelice? Tutti devono essere sposati. Voi non lo siete ancora, zio? No, ma lo sarei se la ragazza che il venerabile aveva scelto fosse vissuta. 3 volte sposato, se la matriarca l'avesse spuntata, pensò tra sé. Di nuovo provò l'antica ambivalenza. Se fosse stato sposato si sarebbe sentito a suo agio, ne era certo, ma non lo era e si trovava a suo agio lo stesso. Era come se avesse superato un crocevia dove avrebbe dovuto svoltare tanto tempo prima, per cui il ritornarvi ora gli avrebbe richiesto uno sforzo più grande di quello che sarebbe stato disposto a compiere. Eppure, più camminava da solo, Più si allungava la distanza e più arduo diventava lo sforzo. E lo sapeva, non poteva rimandare all'infinito quel viaggio di ritorno. Perché allora? Aveva indugiato altri 3 anni dopo la fine del lutto. Perché erano stati anni estremamente piacevoli, rispose a se stesso, quasi idilliaci. Zio anziano, vi prego, ascoltatemi. Oggi sono stata presentata a Pan Tai Tai. Non mi piace, non voglio essere sua nuora. Amitabha. Che cosa aveva in mente sua cognata? Pan Tai Tai era una donna senza istruzione e suo figlio non era certo più soddisfacente, non era in realtà che un grandissimo ozioso. Probabilmente fumava persino la polvere straniera. Sì, era certo dedito all'oppio. Quel matrimonio non poteva funzionare assolutamente. Si alzò dalla sua sedia e porse alcuni fogli a luna di primavera. Nipote, resta qui e guarda queste correzioni. Io parlerò con le donne. Trovò la matriarca nel suo alloggio privato. Vedendo che il figlio aveva in mente qualche faccenda delicata, mandò le schiave a procurare del tè. Quando furono scomparse, gli disse: Ho sentito che l'una di primavera si sposerà. Mi domandavo quando l'avresti saputo, figlio. Se tu facessi più attenzione agli affari del clan, saresti meglio informato. Si inchinò. Le mie manchevolezze sono davvero gravi, madre mia, e per rimediarvi che sono venuto da voi. Allora gli fece cenno di sedere accanto a lei. Lui obbedì, domandandosi se fosse stato saggio affrontare così direttamente la questione. Ora non gli rimaneva altra scelta se non procedere. È vera dunque la storia del ragazzo Pan? Non posso negare che tua cognata ne parli con entusiasmo. Quel ragazzo non è degno di vostra nipote. Dite a mia cognata che quell'unione è inopportuna. La matriarca non rispose immediatamente, ma sembrò soppesare le parole di lui, annuendo fra sé, e disse infine: Ammetterai, figlio mio, che l'una di primavera è in età da marito? Ha solo 16 anni. Io mi sono sposata a 15. Gli occhi astuti di lei sembravano leggergli nel pensiero. Ma comunque reagiresti così anche se ne avesse 20. Certo, quel ragazzo non è degno. Il suo tono era più veemente di quanto avesse voluto ed echeggiò nelle sue orecchie come una moneta che tintinna su un vassoio di ottone. Che gli succedeva? Sua madre corrugò la fronte in silenziosa riprovazione. Non si era sentito tanto disapprovato da quando, all'età di 12 anni, aveva intenzionalmente lasciato che talento sincero si perdesse alla fiera. Ma prima che potesse scusarsi, la matriarca parlò di nuovo. Figlio mio, tu non sei in grado di giudicare la questione. Che cosa intendete, madre mia? Io ho visto con i miei occhi quel ragazzo Pan, vicino alla casa dei salici reclinanti. Ora lei stava seduta molto rigidamente, gli occhi ridotti a fessure dalla collera, cosa che a lui, diversamente dalle donne, raramente capitava di vedere. Ascoltami, figlio, è ora che l'una di primavera lasci questa casa, è ora che serva la sua suocera. E ora che coloro che si devono sposare si sposino. Non cercate di prendere due piccioni con una fava, madre mia. Che sia ora oppure no, è un'altra questione. Lei non deve finire con qualcuno che non saprà apprezzarla. Con qualcuno che non l'apprezzerà come l'apprezzi tu, vuoi dire? Esattamente, esattamente. Udendo la propria voce, si affrettò a proseguire. Dopotutto le ho insegnato molto. Non è soltanto una bella ragazza. No. A questo hai provveduto tu. Ora l'umore della matriarca era visibilmente migliorato e poiché è così speciale, figlio mio, sei tu che devi cercare un marito a luna di primavera. Io? Era sinceramente sorpreso. Ma come io? Non posso. Tu devi. È in fretta, altrimenti tua cognata avrà la meglio. Ora gli occhi della vecchia scintillavano di trionfo, benché nessuna traccia di sorriso affiorasse sulle sue labbra. Per poco lui non scoppiò a ridere, rendendosi conto di come avesse stabilito tutto ad arte. Si alzò e si inchinò. Come desiderate, madre mia. Alla luce della finestra, la pelle di lei sembrava seta antica, senza splendore ma ancora delicata. Si inchinò di nuovo e si ritirò. Durante le settimane che seguirono, talento coraggioso e talento sincero sistematicamente invitarono a cena con un pretesto o quell'altro i padri e i figli delle più rispettate famiglie di Shuqiao. Ma né lui né suo fratello trovarono un candidato degno. Non passò molto che Talento Sincero si richiuse di nuovo nella sua biblioteca. Prendere una decisione gli riusciva difficile, tanto più che questa avrebbe inevitabilmente scontentato sua moglie e forse anche sua figlia. Allora, Talento Coraggioso agì da solo, consultando discretamente membri della Società per il Rafforzamento Nazionale, attento a non suscitare l'interesse di coloro che avevano in famiglia scapoli proponibili. Ma nessun candidato risultava all'altezza. Uno non aveva carattere, l'altro era malaticcio, questo era ignorante, quello aveva un debole per le attrici dell'opera. La ricerca attirò in breve le ambiziose mediatrici di Xuchao, intrepide donne dalla dolce parlantina. Dovevano essere trattate con diplomazia, ma anche con fermezza, e Talento Coraggioso, sapendo di non essere all'altezza del compito, arruolò Ciccia per intrattenerle, mentre lui stava ad ascoltare da dietro un paravento. Grande sorella, i piedi di luna di primavera sono piccoli come granelli di pepe rosso? Oh, lo puoi proprio dire, rispondeva Ciccia con il suo vocione. E la sua faccia, ho sentito dire che è bellissima. Beh, se ti piace quel genere di faccia. Come sarebbe a dire? È da 20 anni su per giù che sto con la sua famiglia. Che cosa vuoi che ti dica di più? La ragazza è senza eguali, è tutto quel che posso dire. Ma naturalmente ha un buon carattere, fa i ricami più complicati. Ciccia soffocava una risata e annuiva con eccessivo ardore. E come la paragoneresti a sua cugina che ha sposato uno dei miei clienti alcuni anni fa? Oh, nessun confronto è possibile. Nessun confronto. Ogni mattina, quando Talento Coraggioso le rendeva omaggio, la matriarca gli chiedeva notizie, ma non otteneva nessun nome. Poi, un pomeriggio d'aprile, il suo vecchio compagno di scuola, il magistrato Tang, gli fece visita. Poiché ora Tang seguiva la linea conservatrice di Pechino, Talento Coraggioso non ne fu dispiaciuto, pensando che forse la visita preannunciasse qualche piccolo cambiamento, forse addirittura un sostegno agli intendimenti della Società per il Rafforzamento Nazionale. Ma dopo diversi calici di vino, il magistrato si alzò e assunse un atteggiamento più formale. Vecchio mio, ho il piacere oggi di rappresentare l'onorevole famiglia dei Pan e consegnare a te, il patriarca dell'illustre clan dei Chang, questa lettera rossa su cui è scritto il nome del loro figlio maggiore, insieme con l'anno, il mese, il giorno e l'ora della sua nascita. E nel mio umile ruolo di intermediario sarò onorato di portare la lettera rossa della tua virtuosa nipote, Luna di Primavera, alla famiglia dei Pan, che mi hanno incaricato di richiedere formalmente la loro splendida unione. Neppure un muscolo del suo volto rivelò la costernazione di Talento Coraggioso. Dunque, neve fragrante si era data da fare mentre lui indugiava. Indubbiamente aveva incoraggiato le speranze dei Pan. Respingere la loro richiesta ora sarebbe apparso sconveniente. Non c'era alternativa se non accettarla secondo la tradizione. E così le lettere rosse furono scambiate e le credenziali del figlio di Pan Tai Tai furono disposte sul tavolo davanti all'altare di palissandro nella sala degli antenati. Se dopo 3 giorni non vi fosse stato alcun segno contrario, se ne sarebbe dedotto che l'unione aveva ricevuto la benedizione degli antenati della casa dei Chang. Poi si sarebbero fatti gli oroscopi e il destino di Luna di Primavera sarebbe stato segnato. Neve Fragrante aveva organizzata ogni cosa, accennando qua e là ai doni e ai favori che i Pan presto avrebbero presentato ai Chang, così che la famiglia ronzava di entusiasmo per l'unione. Capitava a proposito, dicevano gli anziani, ahimè, era vero. Talento Coraggioso non aveva avuto molto successo nell'incrementare il tesoro del clan. Soltanto Luna di Primavera era silenziosa. Dopo la visita di Pan Tai Tai non aveva mai più parlato e nemmeno accennato ai preparativi per il suo matrimonio, benché spesso chiedesse di essere esonerata dalle sue lezioni. Ora, quando si incontravano, riusciva appena a sorridere, persino la matriarca era fredda. Ciascuna sapeva che lui aveva mancato al suo compito. Le ore cruciali scivolavano via e proprio come quando l'intermediario era venuto per la prima volta, Talento Coraggioso non aveva la minima idea di come evitare quell'unione. L'ultima notte, in preda all'insonnia, vagò da un giardino all'altro sperando di trovare un'ispirazione. Nel cortile del cuore saggio salì sulla veranda e si fermò accanto alla finestra aperta di luna di primavera. La sua stanza, come le altre, era immersa nel buio, ma vedeva le tende del suo letto incresparsi alla luce della luna e sentiva il profumo dei lilà nel vaso sul tavolino da tè. Distrattamente passò una mano sopra la liscia superficie laccata del davanzale. Ora avrebbe funzionato soltanto un trucco, qualcosa che mettesse fine all'alleanza senza offendere un'amicizia, senza tradire il suo intervento, senza compromettere l'onore. Era inutile corrompere un indovino. Sua cognata aveva già raccolto diversi responsi favorevoli, e allora? Dapprima immaginò di aver sentito un sospiro, poi lo sentì di nuovo. Luna di primavera non dormiva, ma piangeva sommessamente, non sapendo che qualcuno era nelle vicinanze. Fu sul punto di chiamarla, ma sapeva che non doveva. Che cosa poteva dirle per confortarla? All'alba si ritrovò sulla soglia della sala degli antenati. Nella penombra vedeva appena le offerte sul tavolo dell'altare. Accanto alle ciotole di cibo erano posate le lettere rosse, aspettando la benedizione di coloro che si trovavano al di là delle sorgenti gialle. Oh, se soltanto quelli avessero potuto parlare! Sicuramente un tale matrimonio non avrebbe corrisposto ai loro desideri, non a quelli del venerabile che aveva così teneramente amato luna di primavera. A lungo rimase lì, mentre il cielo si schiariva. La pera nella cesta della frutta sembrò catturare un bagliore. Le pere erano rare in quella stagione e perciò un dono speciale. Improvvisamente scoppiò a ridere, sollevato. Forse, dopo tutto, gli dèi esistevano perché egli aveva ricevuto la risposta. Ridacchiava ancora fra sé, mentre scivolava nella stanza vuota. Mentre l'ora del serpente si avvicinava, Talento Coraggioso stava in piedi accanto al muro di marmo, osservando le donne della casa dei Chang, che si radunavano allo stagno dei loti. Sembravano uno stormo di cardinali che si lanciavano occhiate d'intesa e si agitavano, salutandosi l'un l'altra, e per un istante egli si sentì come un gatto crudele sul punto di piombare su di loro e rovinare il piacere di quella giornata. Senza che nessuno lo notasse, seguì la processione fin dentro la sala degli antenati e si mise dietro un paravento di ebano, mentre la matriarca e Neve Fragrante guidavano le donne all'altare per raccogliere le credenziali. Soltanto Luna di Primavera era assente. Secondo la tradizione, la fortunata ragazza aspettava la notizia nel suo alloggio. Improvvisamente la matriarca uscì in un'esclamazione soffocata, poi gridò: «Amitabha! Aia, Amitabha!» «Che cosa è successo?» chiese Neve Fragrante. «Guarda!» indicò la matriarca. La pera era rotolata giù dalla cesta di frutta sull'altare e stava proprio sopra le lettere rosse. Tutte si spingevano avanti per vedere, nascondendosi la bocca per soffocare gridi di stupore. La matriarca batté le mani, cadde il silenzio e per un attimo sembrò che tutte trattenessero il fiato aspettando quel che aveva da dire. Quando infine parlò, il suo tono era tale da non ammettere repliche. «I nobili antenati ci hanno trasmesso la loro saggezza. Non ci sarà alcuna alleanza fra i Pame e i Chang.» Le altre donne uscirono in cenni e parole di assenso rivolte a nessuno in particolare, finché un coro unanime riempì la stanza. Soltanto Neve Fragrante era palesemente perplessa. Si protese a sfiorare la manica della suocera. «Forse non significa niente, Porpor. Non può esservi assolutamente alcun motivo per disapprovare il figlio di Pantaitai.» La matriarca raccolse la pera e l'agitò davanti al naso della nuora. «Che cos'è allora?» «Un li», rispose Neve Fragrante. «E cosa significa li?» «Pera, Porpor.» «Sì, ma cos'altro può significare?» «Li significa anche separarsi.» «E allora?» «Porpor, la pera può essere semplicemente rotolata giù dalla cesta delle offerte.» La matriarca diede il frutto a Neve Fragrante e poi, raddrizzandosi, dichiarò con estrema solennità: «È esattamente quel che è accaduto. Tuttavia è un segno dell'innegabile desiderio dei nostri saggi antenati. Non deve esserci alcun matrimonio. Nessun'altra interpretazione è possibile.» fissò la nuora negli occhi, sfidandola a protestare ulteriormente. Neve Fragrante non poté fare altro che tenere a freno la lingua, suo malgrado annuì, scrutando la pera che aveva in mano. «Ciccia!» esclamò la matriarca. «Fa venire l'intermediario, così che possiamo avvertirlo di quel che è successo qui!» La serva uscì in gran fretta con un sorriso che le andava da un'orecchia all'altra. Neve Fragrante guardò di nuovo la suocera. «Porpor?» «Sì?» «Cosa dirò a Pantaitai?» La matriarca le strappò di mano la pera e la rimise nella cesta in cima alle arance, dove era la sera prima. «Dille che abbiamo avuto un segno. A che servono i 3 giorni se non a consultare gli antenati? Se fosse capitato a loro, i Pan sarebbero stati costretti a fare esattamente quel che stiamo facendo noi. Nessuno ha perso la faccia. I desideri degli augusti antenati devono essere esauditi.» Mentre scivolava fuori, Talento Coraggioso sorrise fra sé, godendo della sua vittoria. Ma il trucco non avrebbe funzionato una seconda volta. Non si poteva aspettare oltre. Dubitando della propria volontà, si impose una scadenza e, chiuso nel suo studio, passò in rassegna la vecchia lista di candidati. Al termine del giorno, a malincuore, la sua decisione era presa. La sua scelta era caduta su un membro della società per il rafforzamento nazionale, pronipote del rinomato giudice chiamato Farfalla, che imponeva a qualsiasi trasgressore della legge una multa di 50 farfalle, perché il tempo trascorso con la natura è quello che riabilita di più. Inizialmente lui e Talento Sincero avevano scartato il giovanotto perché non aveva una mente eccezionale, ma era un individuo gradevole e la gente del suo clan aveva una pacata dignità, era per di più monogama ed era straordinariamente longeva. Forse sua nipote si sarebbe annoiata, ma mai qualcuno l'avrebbe maltrattata. Inoltre, si disse, Farfalla possedeva una bella biblioteca e aveva insegnato a leggere a sua moglie. E Luna di Primavera aveva l'intelligenza e l'arguzia per rendere gradevole la più prosaica delle vite.